Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Ed eccoci qua di nuovo a Radio Città del Capo. Buonasera, buonasera. Ciao Vladimiro. Ben trovati, ciao Stefano. E come dire, siamo qua con qualche piccolo problema tecnico, ma insomma, come dire, non penso che l'abbiamo risolto. Niente. Io mi sento in cuffia, anche tu. Io non mi sento in cuffia. No. Pazienza. Dai, ce la faremo lo stesso. Ce la faremo lo stesso. Comunque abbiamo verificato che in radio stiamo andando e quindi siamo sempre su Radio Città del Capo. E con questa trasmissione che chiude un po' questo ciclo dedicato al canto epico, insomma, alla tradizione epica in tutte le sue declinazioni. E in questo caso siamo arrivati alla parte dell'Asia. Abbiamo visto la scorsa volta già la parte... siamo partiti da Omero per arrivare alla tradizione più moderna dei Balcani fino al Nord Africa, per poi arrivare appunto in Medio Oriente, e adesso ci spingiamo molto più là. Qui siamo in Siberia, erano i canti delle donne Nenets, il ciclo dei giganti, questi poemi epici che hanno questa tipica espressione che è molto vicina al canto sciamanico diffuso da quelle parti, quindi molto ipnotico, insomma, molto, che era un repertorio poi molto più diffuso in tutta la parte della Russia, dove si chiamavano i canti narrativi, erano appunto canti molto vicini ai canti epici e si chiamavano biline, è una tradizione che di fatto è andata scomparsa più di un secolo fa e c'è stato qualche tentativo di rifolclorizzazione, soprattutto in periodo sovietico, ma alla fine diciamo nella tradizione queste musiche ormai sono rimaste giusto nelle trascrizioni di alcuni compositori di fine 800, il periodo del gruppo dei cinque, insomma, altri compositori tipo Liadov, e c'è rimasto a nostra conoscenza ben poco, soprattutto quel volume di Vladimir Prop sui canti, sulle popolari russi, sulle fiabe, biline, quindi i canti tutto, magici, tutto il repertorio delle fiabe russe che quei temi portano avanti. E poi invece questi canti epici nella Siberia sono rimasti, anche perché abbiamo appunto visto che un po' tutti i vicini, e stasera non ascolteremo, ma c'è una tradizione epica non solo nella Mongolia, che abbiamo sentito l'altra volta i canti kazakh, ma fino anche appunto alla Cina. E noi invece andremo a ascoltare forse alcune tradizioni epiche un po' meno conosciute, ad esempio come quella dei Palawan delle Filippine, di cui ci parlerà in particolare Stefano. Speriamo che ci sia qualche anima buona che cerchi di recuperare anche le biline russe. Intanto dobbiamo ringraziare la signora Nicole Revel, che invece ha registrato e recuperato nel tempo, dagli anni 70 fino adesso, i canti epici filippini, i cosiddetti tul-tul. E noi andremo oggi a Palawan, proprio, che è un'isola che si trova tra l'equatore e il decimo grado a nord, sopra il Borneo. È una lingua di terra oblunga che va da nord a sud. E gli abitanti di quest'isola, anche loro, si chiamano Palawan. E la particolarità di questo tipo di poema epico sono proprio le tematiche. In particolare noi ascolteremo questa sera la storia dell'eroe che si chiama Memiminbin. Ed è un canto epico relativamente corto, solo 3 ore e mezzo, ovviamente non lo ascolteremo tutto. Vi farò una sintesi della storia perché è molto bella e ci sono anche delle similitudini con varie culture. Sapete che le Filippine sono un incrocio anche di varie religioni, varie tradizioni, tra cui l'Islam, il cristianesimo e anche la tradizione cinese, no? Infatti proprio Palawan si trova tra il Mar della Cina e l'Oceano del Filippino, insomma, no? Allora, andiamo al dunque. La cosa particolare di questi canti epici è proprio il contatto con la natura, no? E lo scambio con la natura tra l'uomo ed essa. La cosa importante è che questi canti hanno una sorta di... Sono il libro della legge morale, diciamo, dei filippini. Non ci sono, sì, ci sono ovviamente anche le leggi, quelle che conosciamo noi, però queste, tramandate oralmente, sono molto più profonde a ricercarsi appunto nella notte dei tempi, come si dice. E parla soprattutto di cosiddetti taubanar, no? Le persone cosiddette vere, ossia quelle che osservano la legge che si chiama Adat, no? E andando subito al fulcro della storia, nel Tul-Tul si parla per la maggior parte di legami di parentela e di matrimonio. Ossia, ad esempio, c'è un tultul, ossia un canto epico, che si chiama Durus Mata, che parla di un orfano che, appunto, essendo orfano, non potendo scambiare la propria famiglia con un altro, viene adottato da due cugini per dare a lui una specie di potestà familiare, ok, per poi andare in sposo con qualcuno. Oppure c'è un altro che si chiama Kawas Khan, che parla di un cacciatore che per sposarsi deve essere maturo e soprattutto non dire le bugie. Oppure, per ultimo, ad esempio, un altro canto che si chiama Duwai, che racconta la storia di un uomo che giustifica il fatto che vuole una seconda moglie. Noi stasera invece andremo ad ascoltare alcune parti di questo eroe che si chiama Mami Min Bin, come ho detto prima, registrato il 10 novembre del 71. Il ragazzo, diciamo, ha 28 anni, all'epoca aveva 28 anni, che si chiama Mesinu, è il narratore, e il tutul in particolare si pratica durante la notte. Infatti si possono sentire in questi canti le cicale sotto, i grilli, è abbastanza ipnotico anche per questo, ovviamente anche per la cantilena che racconta le gesta dell'eroe. Allora, cosa succede? In sintesi, l'eroe vive da solo con 7 piccioni di noce moscata e si sente solo, vuole moglie. Allora, cosa succede? Va via per cercare moglie. I piccioni però lo avvertono: non usare violenza con la ragazza che incontrerai. Lui dice ai piccioni: sì, va bene, ho capito. E inizia il suo viaggio verso la ricerca della moglie. Ne trova una e, spinto, diciamo, dall'istinto, non riesce a controllarsi e cerca di averla con la violenza. Cosa succede? La ragazza chiama il fratello che si chiama Labit. Qui stiamo parlando di persone veramente esistite, però che hanno anche dei poteri magici. Cosa succede? Labit si crede, noi potremmo credere che vuole difendere la sorella, invece si avvicina al nostro eroe e cerca nello stesso tempo di convincere la sorella a stare con lui, no? E allora cosa succede? La sorella si arrabbia perché dice: cavolo, tutti e due contro di me, e allora se ne va verso i boschi. Vedendo una situazione un po' strana, il nostro eroe pensa che ci sia un incesto di mezzo. Allora cosa succede? Accecato dalla rabbia, combatte con Labit per addirittura 7 mesi. Sono tempi epici, come si dice, no? Il conflitto non si risolve perché entrambi sono molto molto potenti, no? Allora cosa succede? Labit non è un antieroe, diciamo il secondo eroe, va verso il cielo per incontrare il saggio nonno del tuono, che tra le sue schiere c'ha i 7 fratelli del tuono, e chiede consiglio cosa fare con questo signor Maminimbin, no? E lui dice: ah, bisogna portare pazienza. Nel frattempo arriva Mami Min Bin, che vuole riportarlo giù dal cielo per continuare a combattere, perché lui è convinto che lui ha un rapporto incestuoso con la sorella, cosa che però gli dei del tuono negano, perché avrebbero già provveduto se fosse stato vero. Allora cosa succede? Torna la pace tra i due, però. E succede che il nostro eroe, Mami Min Bin, torna quindi dalla sorella di Labit, tutti e due diciamo che si sono calmati, e richiede un'altra volta la mano della sorella. La sorella, ancora arrabbiata, dice no, che non ne vuole sapere niente, nonostante lui, educatamente, l'educazione è molto importante in questi poemi epici, e la buona condotta, e gli abbia dato in regalo un vestito. Allora cosa succede? Lui, sconsolato e ancora solo, torna dai suoi piccioni per intraprendere un secondo viaggio e quindi andare verso il mare, verso la calma, no? e in questo mare incontra un'isola dove sopra c'è la signora dei pesci che è intenta a cantare la canzone della sarta ammalata e a cucire, no? Lui, spaventato da questo, prima si è un po' strano, insomma, questa figura per lui. Poi però lei lo invita e dice: siediti accanto a me, dimmi chi ti ha rifiutato. Lei, molto furba, vede che lui ha qualcosa che non va, e allora lui gli racconta tutta la storia. Allora lei lo aiuta e gli dice: senti, noi diventiamo fratello e sorella, diciamo astrali, no? Però tra di noi non può succedere niente, quindi anche essendo anche fratello e sorella non di sangue, è proibito tra di noi l'incesto. Allora inizia per il nostro eroe una vita serena. E i piccioni nel frattempo tornano da l'abit e la sorella per chiedere: dov'è è andato il nostro capo, no? È andato via. Allora i piccioni mangiano dei semi, sputano dei semi, e i semi si trasformano in oro. Allora la sorella, dapprima arrabbiata anche con i piccioni, e poi si mette a piangere dalla felicità, dalla gioia, no? E vorrebbe che il nostro eroe tornasse indietro. Allora dice: fratello mio, vai a prenderlo tu. E il fratello dice, dopo che si è fatto un pisolino: no, ci vai tu, cara, perché è il tuo futuro innamorato. Però educazione e legge vuole che le donne non possono viaggiare da sole tra le isole. Allora il fratello, diciamo, si sforza un pochettino e va a prendere il nostro eroe. Tornano tutti insieme, il nostro eroe, convinto dalla signora dei pesci, a cavallo di un pesce fantastico che si chiama Tandayak, no? È un pesce che abita proprio sotto la roccia dove abita la signora dei pesci. E loro tornano a casa di Labit e la sua sorella, accompagnati da questo pesce mitologico. Cosa succede? Tutti vissero felici e contenti alla fine, e c'è questo scambio, diciamo, di sorelle. La signora dei pesci finisce con l'abit, e il nostro eroe finalmente può diciamo consumare il matrimonio in maniera educata, cioè seguendo la legge e le usanze, con la sorella di l'abit. Ora ci ascolteremo qualche minuto di questo canto intonato dal signor, come dicevo prima, del signor Mesinu, 28 anni, registrazione del Nicola Revel, che ringraziamo ancora, del 10 novembre 1971. Buon ascolto. In ba ma tin pa no yo ma nung a pho da kon pin ke kun so ko kwan tin in ke na gya nya ra kon bo pa da chi nu ko nyo su ma bung ko nya ba ku tu ba ina nu ta ku kun ko nya la mang min dan mi san bo run ding ko na tu da yan pa na ti ta mi min din ko nyo bo pa in In ba dene nga nya no lamang ga sina po kasut uti wat ki mintas mono bang sulburan an curung na tut ban wat maya yang silabitin Hina din ka nya ti wat mag ta tiag lagi a satung sana tuk dan kunu kwa nya maya dakon an itu kuno tung sara tuk dan mu Hinca kwa dagdi kilangku kwa tindalku Muka si to yun Ca kwa kwa nya magibut ku ragi mindonin Hinatin bapak sulutan Tung hati sundang na kolandu ingin ku kasih Bukanya tuba In maya da kon atin lang bo pa ini but kwa to ma Ina ku hanya mengasih ku narimu, kaya enggak sambungan ku menai kauin. Insya ku hanya rakan tindal mona bo, sinu maglau ngatin. Hindi murung ko ngat luk tak dag ku hanya nikut diwat bibitong ku neko cugi dikilang moko jari tubah. Insa kwa kwa nyo tindal mong mona po. Ina kwa nyo maya dakon dikilang ka tindal kulong kuwatun. So kwa tindal kinggan ku wang simindonin po. In bagasi kwa nyo sumambung no karakon kunudimu. Hina kwa nyo maya inga si kunang dimu. Hindakan kwa nyo salo satin baku no lang maya masauran ku kasi babanu itu bagurimu. Hintaman paka kuanya siari atin langku lamang kuanya ingku tentawang siari bo. Hinari kuanya si maya dikina batu mindal kunu gasi bo. Hinca kua ini buja tukola bo kunu ingin nyarimu batu gasi bo. Inari sambung ina lamang di musim mayain bo. Insa bab kuanya kaya langi buton mubatun dak bangsa kulo laki tu bo. Indi mu kuanya libun tayan bangsa matin diki maibut makut beberapa aku numatin tayan kunu bo. In manung apa kuanya rimu mayana teni buton mula laki ating kaya na takutan kurakonin. In misan ating kuanya maglundang tat beberapa ton nari kaya na lamang atin maing kutan telungku. Inang kasa kuanya rimu pikira no but manungain wah. Hina kwa nyo tayan nuka mo pati hino magbabaya kwa nyo sumambung sabalik mo noga pinutok liyago ba hinda kon kwa nyo sumambung kukabag kikayan marikito tayanin ba. Insabab kwa nyo kasi mabak manung apa panu ya pikiran kan ku narakan natin banu nong isambung ku intaman pagka dikisun bini bicarakan ku inu kasi nu magbuk bayak ko nyesal yu bakaya nung nakam ku tu ba. Inari jangan lamang ku anti di mu masalah tu bong ni maya in in sebab guanya kaya ba isian tatar tak solus ba in di mu mengbana natin sambung ina bong pari si maya politik guanya lelaki gatu mujurimu ba. Itu kwa nyo lalaki galang ku kasi po. Inating kwa nyo kaya napilinan mo tao kwa tintugin san baton kasi po. Sugirang ko ba'y kawari ba di kima natibat si maya atin di kinawang sambungan ku kasi ikawin po. Hinanunta ko kuno arali inilabit pagtalikod-talikod na to umandi na wang kusambungin kasi po. Indah kan gua nyesin mau buat banyak kau nyoba kuanti nabang kau kuku ya dia kau nyamak sosa brak no tunggi bong yo kasih kok. Hina tin gua nyongu kasumbali ya lang liya gua tin. Indah kan mandi ku nangku sambung tayo natin bopain. In misan long kui kawatin bak diki hingga pok napot ingin mu kuantin ngatu bah. Hina kwa nyerakan bang maya zonu sorong nabatin pina. Glogo sangkai cimin donin bah. Cakwa kwa nyerakan han maya kalu atin penginginan di mendana selalu satin di mu bah. Ina tingguanya kalu atin inginnya sebale kita mak bunuh tayan manunga mak sulai tawat kincokan in bah. Inarit mami min bin kanyo tiba-tiba dorok bak mana. E così abbiamo sentito queste musiche che ci arrivavano dalla, aiutami, perché dall'isola di Palawan, Filippine, esatto, dall'isola di Palawan, appunto per questo canto epico locale. Certo, ho dovuto raccontarlo, diciamo, per i radioascoltatori, anche perché sono gocce rare, ecco, proprio per questo, e quindi vanno anche raccontate, insomma. Ecco. E passiamo invece a un altro repertorio sempre epico di una minoranza di un paese che non ci si aspetterebbe mantenere delle tradizioni, anche se vabbè, il Giappone si sa che alcune, cioè, o comunque in modo turistico è conosciuto per mantenere anche alcune vecchie tradizioni, però insomma sono cose più legate di costume a volte che si immaginano, oppure legate magari a un certo tipo di musica colta, tipo per esempio la loro musica classica, un certo tipo di teatro. In realtà qui andiamo non proprio a parlare del Giappone come lo conosciamo, ma degli indigeni del nord del Giappone che vengono chiamate Ainu e hanno questa tradizione dello yokur, che sono dei canti epici che erano andati un po' erano un po' scomparsi finché poi anche sull'onda della rivendicazione della propria minoranza linguistica culturale, insomma della loro storia, soprattutto grazie all'opera di questo militante, possiamo dire, è stato anche poi un deputato che ha rappresentato un po' gli Ainu anche nel Parlamento giapponese, il cui nome era Shigeru Kayano, è morto a 80 anni nel 2006 e lui praticamente ha registrato e ha cantato, ha contribuito a far conoscere, a diventare quasi insomma un'attrazione a volte anche questi repertori epici, di cui andiamo a sentire subito un brano tratto appunto da questo disco che raccoglie un po' le registrazioni di Shigeru Kayano, che è stato un po' quello che ha raccolto e che ha registrato tutta questa tradizione di canto epico, e questo è la canzone del duello con il dio guardiano, col proprio dio guardiano. Upak nuni kor ayupi utara turai nukai ki uene usara koro okaro kai ine hoshipi arapa kiru uene ena okake uta uamse kuru uka akoya yusura Oke angkatu ayai koto ima Koshira suipa ene ukahi Uo inaka amuhi kamuitu ureishi Upiri ikai epi chikoha ito kara Ed eccoci di nuovo in radio, sempre con i soliti problemi tecnici, per cui io praticamente non riesco a capire, se non dalla radio fisica, che siamo in onda. E pazienza, oggi va così, siamo anche un po' stanchi in questo periodo, insomma, un periodo un po' faticoso. Sì. Ci scusate, vi abbiamo comunque fatto sentire un po' di più, ma non perché volevamo farci una penichella, ma perché comunque dà l'idea di quanto comunque questi frammenti, magari messi su disco, sono comunque frammenti lunghi. Cioè questo brano che vi abbiamo mandato di qualche minuto, in realtà poi è una traccia, è solo un pezzo, e comunque sono una ventina di minuti, perché erano cose molto lunghe. Abbiamo visto l'altra volta appunto di centinaia di migliaia di versi, insomma, 500.000. Una tradizione epica, importante, ricordiamo, non scritta, ma totalmente orale. Quindi questo è proprio un qualcosa di eccezionale, se voi ci pensate. E abbiamo visto anche l'altra volta come la teatralizzazione, no? Anche di questo repertorio epico ha trovato una sua strada, anche perché in qualche modo, così come questa tradizione epica è diventata anche romanzo, fino a diventare i romanzi cavallereschi del 500, no? Del 400, 500, i vari Ariosto, Tasso, abbiamo visto l'Erotocrito di Cornaro a Creta, e insomma tutti questi, questa tradizione ha trovato anche un po' una strada in varie parti del mondo. Abbiamo già visto il Maggio Drammatico nel nostro Appennino, ma in questo caso andiamo molto più in là, restando sempre nell'estremo oriente, tradizione del pansori coreano, che è questa tradizione di teatro appunto basato sui canti epici, dove c'è questo attore, attrice, che con l'uso del ventaglio e di gesti come molto misurati, l'accompagnamento di un suonatore di tamburo, in qualche modo declama questi versi per uno spettacolo che anche qui dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato recuperato, un po' preso per i capelli, che stava per sparire, fino a diventare appunto bene patrimonio dell'UNESCO e anche un'attrazione turistica, nel senso che per chi va in Corea del Sud è uno spettacolo, e chissà, forse anche in Corea del Nord, non so se è una tradizione comune alle due Coree. Comunque sì, teatro epico che si chiama Pansori, e qui andiamo ad ascoltare Kayano Shigeru, che appunto ci fa sentire un frammento. Di questo ci sono registrazioni praticamente di tutto il Novecento, perché era stato registrato anche un pochino più indietro con gli anni, quindi c'è una documentazione più ampia rispetto agli Ainu di cui abbiamo sentito Shigeru Kayano prima. Qui siamo in Corea ed è il Pansori. Ongnara wonpung malyeobe Hwangju Doadong sanen bongsahan sarami sarasseude. Seongeun Shimyo ireumeun Hakgyura. Nude myeongmun gojokuro myeongseongi jajatteoni. Gahuni burengaya 30전 안맹하니 줄여서 받들 소냐. 그러나 그 안에 곽씨 부인이 또한 현철하사 모르는 한게 전혀 없고 백집사 가가니라. 봉사가장을 품을 바라봤더는디 싹바느질 관대 도복 형창 식념이며 협속회자 중초막과 남혁우 부그 잔입이질 상침질 꺾음질과 매울뛰기 꾀땀이며 고두누비 소룰리기 망근끼며 가끈적기 배자토수 보선행전 보대 허리띠 단짐줌치 섬지경 너필랑해야 볼지복권 풍채며 전우주어 가진 금진 폐계모 쌍원왕 수도 놓고 오생모사 각대 흉배 학그리기 궁초공단 수주 선주당 능갑사은 문토주 갑주 본주 표준병주 생초 둥경 조포군포 황제포 춘포문포 제출이며 삼배백조 극상세모 싸그를 받고 마터짜기 청황적 백심향호세 각색으로 염색의기 초상난대 원삼제보 혼장대사 금식숙 정가진제편중계약과 박상화자의 다식 정능면화책의 신설로 각각 찬수약주비기 수파림 봉오림과 폐상하고 김지를 잠시도 놀지 않고 서적이 다달토록 품파라모 일제 분모와 돈 짓고 돈 모아 약 만들어 약을 지어 관둔되니 일수책이장기변을 이웃집 사람들께 착실한 곳 빚을 주어 실수 없이 받아들여 준 주시연금 봉계사 안못 보는 가장 공경 시중일주 이러니 상하길 변 사람들이 학시 부인 너집 마음 뉘안이 칭찬어리 신봉사 30이 넘어 40이 장근토록 슬아의 일점 혈육이 없어 매일 부부 한탄할제 품바라 무인 재물 맨갓 공어를 다 드릴제 명산대철 정신당과 교무총사서광사 석불미륵석에 신디 허유허유 다니시며 칼사시주 인등시주 창원시주 연왕불공 칠성불공 난불공 가지가지 다 들이니 공든달비 무너지며 신등단기 꺾어지랴 갑자 사월을 초파이랴 한 꿈을 던지라 서기 반공하고 지가 영농터니 하나로 선녀 하나 옥정으로 내려올지 버리오 화가니오 몸에 나눈 삶이라 개화까지 손에 들고 부인 전 배려하고 곁태관 appunto parlavamo del fatto che non a caso insomma questa straordinaria documentazione che arriva anche fino ai giorni nostri di questi canti epici nell'Asia, nello Stremo Oriente e anche nell'Oceano Indiano, insomma fino appunto all'India, alla Cina. È testimone insomma di paesi che ormai sono diventati paesi importanti a livello mondiale e quindi come spesso quando si diventa anche più importanti si cerca anche di investire per documentare certo. E far vedere insomma anche cercando di preservare e portare avanti questa cultura e poi inoltre anche una situazione in cui viene come dire anche rappresentata, no? Portata in pubblico, insomma sono spettacoli che si può vedere come noi andiamo a vedere lo spettacolo di marionette. Ma è bello così, non siamo tutti globalizzati, cavolo, vai. No, è bello perché appunto sono cose particolarmente suggestive che sicuramente ti lasciano un ricordo. È un'altra tradizione molto viva proprio a livello proprio tradizionale e anche di conoscenza diciamo al di fuori dei confini anche perché vabbè, non avremo tempo ma per esempio qui avevamo un brano ispirato a questo poema epico africano dell'Ovest che è il Sunjata e è molto vivo appunto in quelle zone insomma dell'Africa dell'Ovest e noi per chiudere ma in realtà non chiudiamo subito vi facciamo sentire queste due esecuzioni una dal Gambia e l'altra invece dal Mali di questo poema epico di questo eroe un po' tra storia e leggenda Sunjata che è protagonista di molti di questi poemi epici che poi nella loro rappresentazione a volte accompagnati da questi griot questi musicisti, cantastorie con la cora o altri strumenti a volte li troviamo con invece ensemble più moderni in cui c'è magari il basso percussione, la cora, insomma, e c'è come una specie di dialogo anche qui di rappresentazione quasi teatrale tra i vari personaggi che cantano le strofe di questo poema in situazioni assolutamente festive, insomma, in cui c'è la gente anche poi si balla. Andiamo a sentire il primo esempio che appunto è di Fodai Musa Suso, che è questo musicista e il suo ensemble dal Gambia. Thank you. ti vada di avanda. Eravamo appunto in Gambia, l'abbiamo sfumato perché vogliamo sentire un brano anche da che parla del cavallo di Sunjata, e qui siamo nel Mali. E con questo brano direi che vi salutiamo e vi buonasera, diamo appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima. Salutiamo tutte le sardine. Ciao sardine. Salutiamo tutti quanti quelli che reggono, che ci piacciono noi. E che ci piacciono. Ciao. 아메리